darti solamente dei sorrisi. L'amore è come questo mare che guardiamo da quassù e sembra calmo. E intanto ci trascina e ci conduce via in chissà quale posto saremo noi domani e chissà che tempo farà, proprio come il vino che bevi la sera ci inebria e mi piace così con questa luna che ancora stupisce e questo silenzio utile per ascoltarci. Buona sembra la sera, senza brutti presagi, se sapessi divinare nelle stelle, che futuro leggerei, sarà ancora bello, come ora questo tempo, in questa casa in faccia al mare. La sera ci inebria e mi piace così con questa luna che ancora stupisce e questo silenzio utile per ascoltarci. Buona sembra la sera senza brutti presagi, se sapessi divinare nelle stelle che futuro leggerei, sarà ancora bello come ora questo tempo, in questa casa in faccia al mare. Io non ho da darti solamente dei sorrisi. L'amore è come questo mare che guardiamo da quassù e sembra calmo.